e di usarle, diciamo così, pro domo sua, è un po' una continuazione di questa lunga storia, perché appunto nel campo di Yarmouk l'assedio è stato fatto da parte dei soldati filo governativi. C'è anche una situazione che si complica sempre di più nei territori, ma anche perché ci sono delle condizioni di vita sempre più difficili dopo che c'è stata questa rottura fra l'Egitto, dopo il colpo di Stato di Sisi, i fratelli musulmani, e quindi Hamas non ha più quella sponda, diciamo così, egiziana. Sono stati chiusi i tunnel, di fatto non passa più niente dall'Egitto alla striscia. E poi mentre tutto questo sta accadendo, ci sono dei giochi politici. Hamas cerca di uscire dall'impasse e dall'angolo, trovando un asse con il famigerato Mohamed Dahlan, ex capo dei servizi segreti, nel tentativo appunto di mettere fuori gioco Abu Mazen. Però mi sembra che ci sia appunto il collegamento con la Palestina. Pronto? Pronto? Allora, siamo di nuovo in collegamento col campo di Haida per un aggiornamento su quello che sta succedendo ormai, insomma, da diversi giorni. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dici un po', ci eravamo lasciati questa mattina con l'esercito israeliano che entrava nel campo e con l'autoparlante intimava la popolazione di non uscire di casa, quindi un coprifuoco imposto come non se ne vedeva, insomma, ormai da tantissimi anni, penso dalla seconda intifada, e che coprifuoco che è stato rotto dalla popolazione per continuare a rompere il muro dell'apartheid. Dici un po' cosa sta succedendo. Allora, i guardi della ora 3 di pomeriggio, organizzati i giovani di campo provvisoriali, e di nuovo e arrivati fino al muro. Arrivati i giovani e pronunciati, diciamo, e lavorare sul muro, e poi ha buttato un pezzo del muro, buttato giù, e poi organizzato queste cose, e dopo, perché dopo la cosa che è successo anche al campo proprio di Jenin, e quanti sentito che è morto e un altro, prima mattina 3 e un altro, allora e 4 giovani che è morti oggi a Jenin, e fatto gli scontri, fatto buttare il muro, e poi la forza delle occupazioni entrati al campo e sparano tantissimi di gas a tutte le case, a tutte le strade di campo, per entrare dentro, e con la gomma ha ferito 5 giovani al campo con la gomma plastica, e poi c'è tanti famiglie che non so come si dice, di ragazzi non sentono bene, ha portato all'ospedale femmine e bambini della famiglia di campo proprio di Haida. Finora c'è la forza di occupazione israeliana, stanno cercando per entrare in mezzo del campo, sparano di nuovo tantissimi gas e la gomma. E poi la cosa nuova che c'è, stanno e sparano il gas silenziosi, non ti senti come arriva il gas ni dove arriva. Questa è una cosa nuova che stanno, secondo me, provando queste cose al campo proprio di Haida. E poi anche ha fermato tutti i giornalisti e palestinesi e stranieri, per la nessuno fare foto, per la nessuno fare il video anche di questo scontro, e poi anche ha fermato tutti le ambulanze, per la nessuno di ambulanze entrare al campo proprio di Haida. Noi sta parlando di l'occupazione, o sta parlando della polizia israeliana, questo al campo proprio di Haida, di una entrata vicino a questa entrata, subito, diciamo 50 metri, che la polizia dell'autorità palestinese che sta guardando di queste cose. Come Giovanni dice, noi non sa chi, di chi facciamo gli scontri, perché per uscire di questa parte c'è la polizia palestinese, non lascia nessuno per uscire del campo, e l'altra parte c'è la polizia israeliana che spara, che arresta, che arriva vicino il muro o sta facendo gli scontri. Questo finora, fino a questo momento, che è successo al campo di Haida. E noi come giovani, per mandare al nostro compagno dell'Italia, stanno adesso pubblicare tutti la foto, stanno scrivendo la cosa per mandare a voi tutti la cosa che c'è al campo profughi di Haida. E io con tutti i compagni di campo profughi di Haida, e graziare Radio Onda Rossa, ringraziamo anche Free Palestine in Roma, Gab Parma, la Tambora Rossa, Radio Tambora Rossa, che stanno a pubblicare tutte le cose che succede al campo profughi di Haida. Senti una cosa, avete notizie di quello che sta succedendo anche a Jenin? Hai accennato al fatto che questa incursione dell'esercito e anche questa ribellione dei giovani è parallela anche a un'incursione dell'esercito nel campo di Jenin. Sono stati ammazzati 4 palestinesi giovanissimi da 17 e 22 anni. Sai dirci adesso com'è la situazione a Jenin? A Jenin adesso siamo... silenzio, ma speriamo che non è morto nessuno di questi 7 che ha ferito oggi mattina, perché uno che è morto è pomeriggio, uno che ha ferito oggi mattina. Speriamo che nessuno di questi giovani è morto. E poi la cosa è più epona, siamo epona e bella per tutti i nostri compagni italiani, che la compagna italiana sta bene, sveglia e parla, è uscita dall'ospedale. Gli altri campi profughi nell'area di Betlemme stanno facendo delle manifestazioni di solidarietà su questo assedio ad Haida. Cosa sta succedendo al di fuori di Haida, sempre nell'area di Betlemme? Allora, diciamo di l'area di Betlemme e gli altri campi profughi, tutti i compagni, che anche noi come compagni di Haida, graziare a tutti, perché tutti anche stanno entrando e aiutare i giovani e compagni di campo profughi di Haida. Stanno entrati al campo adesso tutti, diciamo, tutti quasi giovani degli altri anche campi profughi, e stanno dentro il campo profughi di Haida e con i compagni di Haida facendo gli scontri, perché gli scontri sono troppo pesanti e secondo me dopo queste cose che c'è oggi pomeriggio, e forse loro provano di entrare al campo stanotte per arrestano e per diciamo fanno qualcosa, e per questi vogliono, stanno tutti svegli, tutti pronti per questi cosa, per continuare gli scontri al campo. Senti, quindi insomma, dicevamo, l'ultima domanda era ancora un po' sull'autorità palestinese. Hai detto che la polizia dell'autorità palestinese si trova all'entrata del campo e sta guardando quello che è successo. Ci sono, tu sai, anche delle dimostrazioni a Ramallah verso l'autorità palestinese? Insomma, si sta muovendo qualcosa verso questa inerzia dell'autorità, anzi, certe volte, insomma, della polizia anche repressiva? Ti giuro non so cosa dirti, perché nessuno sta facendo qualcosa dell'autorità, solo che loro stanno cercando. Io te la dico adesso che è successo anche del nostro compagno di campo profughi di Lazza, è arrestato 8 i giovani, mi ieri fino ad oggi l'autorità, la polizia dell'autorità palestinesi, 8 dei compagni delle fronti popolari al campo profughi di Lazza, mi ieri fino ad oggi arrestati 8. Questo che solo posso dire, perché l'autorità e la polizia stanno guardando, solo stanno arrestando il nostro compagno, di anche gli altri campi profughi, diciamo di tutte le città. Va bene, senti, noi ti ringraziamo, ovviamente qualsiasi comunicazione volete fare, i microfoni della radio sono sempre aperti, la nostra solidarietà e vicinanza di lotta è sempre con voi, e anche insomma un saluto alla ragazza italiana che è stata ferita, e ci sentiamo più tardi. Inshallah, diciamo come dice palestinesi e arabi. Certo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te. Ciao. Ciao. Lick more drums. Allora, c'è un aspetto che insomma ci piace sottolineare, che riguarda appunto la manifestazione, i funerali che si sono svolti a Jenin, i funerali dei tre militanti uccisi, militanti, lo ricordiamo, fra i 17 e i 22 anni, poi ne è morto anche un altro a causa delle ferite, sono 7 i feriti di questo attacco delle forze israeliane. E c'è stata questa manifestazione di circa 10.000 palestinesi che hanno marciato dietro le bare dei tre militanti uccisi dall'ospedale pubblico di Jenin fino alla moschea più grande, e sono davanti al funerale, davanti a questa marcia, era guidata da esponenti dell'autorità palestinese di Fatah, di Hamas e della Jihad islamica. E durante la manifestazione la folla gridava slogan, chiedendo naturalmente ai militanti palestinesi una vendetta e richiedendo all'autorità palestinese di bloccare immediatamente i negoziati di pace con Israele, e richiedeva la riconciliazione fra Fatah e Hamas. Ebbene, questo è un aspetto appunto che vogliamo sottolineare, perché la volontà del popolo palestinese è una volontà che contrasta con il quadro politico che invece diciamo le elite palestinesi in questo momento stanno definendo, con questa divisione appunto fra Fatah e Hamas, anche perché c'è un'urgenza che è iscritta nelle condizioni di vita generali. Il governo di Hamas non è più in grado di controllare la situazione, l'autorità palestinese, Abu Mazen è stato recentemente a Washington, continua ancora a mantenere viva questa farsa dei negoziati, tant'è che lo stesso Israele, apparentemente dal modo in cui appunto si comporta e anche dalle dichiarazioni del loro ministro degli esteri, anche di Netanyahu, non ne vuole assolutamente sapere, non ci crede, diciamo così, neanche Israele. La realtà appunto è estremamente drammatica, come descrive giustamente un articolo Michele Giorgio, quando si parla dei problemi infrastrutturali che rendono sempre più invivibile la vita nella striscia, a cominciare per esempio dalla mancanza dell'acqua, perché quella che esce dai rubinetti non è potabile, ma la bevono tutti quelli che non possono permettersi di comprare l'acqua in bottiglia, cioè la gran stragrande maggioranza della popolazione. E naturalmente su questo poi si inseriscono anche delle vere e proprie speculazioni, perché per esempio c'è un progetto dell'UNICEF per desalinizzare l'acqua, finanziato con 10 milioni di euro dall'Unione Europea, ma questa operazione per esempio non coprirà che i bisogni di appena 75.000 abitanti su 1.700.000 che abitano nella striscia. Quindi è una situazione complicata, il governo di Hamas non ha più soldi a causa della chiusura egiziana ed è costretto ad alzare le tasse su tutto quello che va sul mercato. I 50.000 dipendenti prendono un terzo dello stipendio, spesso neanche quello, senza contare i 300 milioni di dollari di tasse che il governo di Hamas ha perduto di colpo a causa della distruzione da parte dell'Egitto dei tunnel sotterranei, che oltre 1.300 fra Gaza e Sinai, che garantivano le merci di cui ha bisogno Gaza, e queste gallerie davano non solamente la possibilità agli abitanti di approvvigionarsi di merci necessarie, ma davano anche lavoro a migliaia di persone. E in questa situazione, insomma, così drammatica, si inserisce la politica israeliana, che dagli attacchi nelle alture del Golan contro obiettivi siriani, alla richiesta di riconoscere Israele come uno stato ebraico, alle incursioni, appunto, come abbiamo potuto anche sentire, quotidiane nei campi profughi, alla risposta militare che è stata data al lancio dei razzi nella striscia qualche settimana fa, insomma, è una politica sempre più aggressiva e che tende anche a scardinare il quadro delle trattative di pace, che sono ancora alimentate soprattutto dagli Stati Uniti, che comunque sono sempre parte in causa. Poi ci sono alcuni analisti, gli stessi analisti israeliani, che ormai stanno parlando esplicitamente di un distacco degli interessi fra Israele e gli Stati Uniti, legati proprio al fatto che Israele in quella zona non è più così strategica come un tempo, perché gli Stati Uniti ormai praticano, diventeranno nel 2020 indipendenti per quanto riguarda le risorse energetiche, grazie all'utilizzo del cosiddetto shale gas, e quindi c'è il gas che si ottiene attraverso una pratica estremamente dannosa per l'ambiente e per gli uomini, il fracking, e quindi diciamo che questo gas gli consentirà di essere indipendenti dal punto di vista energetico nel 2020, e questo naturalmente, come dire, in qualche maniera degrada lo stato di Israele, nel senso che non è più così strategico per quanto riguarda la posizione in cui si trova, perché è appunto a guardia degli interessi petroliferi. C'è anche un attore che ormai si sta definendo in tutta quella zona, e sono il Qatar. Il Qatar continua a finanziare da una parte i ribelli, che siano siriani, e anche in parte finanziava a quanto sembra anche il governo islamista di Hanieh. Però il Qatar è un emirato estremamente piccolo ma estremamente ricco, e quindi sta facendo una politica di presenza massiccia nell'area, cercando di condizionare gli esiti di queste crisi che ormai si stanno intrecciando fra di loro, da quella eterna palestinese a quella siriana. Va bene, con questo io direi che possiamo concludere qua questo spazio che abbiamo provato a fare di nuovo di aggiornamento di quello che sta succedendo in Palestina, in particolare in Cisgiordania. Continueranno gli aggiornamenti sicuramente nelle prossime ore. Rimanete, insomma, all'ascolto di Radio Onda Rossa, perché continuano le trasmissioni. Ciao.